Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. C'è un bel imbusto, oh oh oh oh, il super busto, oh oh oh oh, gonfia il torace, oh oh oh oh, oh quanto piace, oh oh oh oh, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. C'è il tipo chic, c'è il tipo shock, c'è il tipo chef, ma guarda quanti ce ne sono, tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. C'è il tipo stanco, oh oh oh oh, che arriva bianco, oh oh oh oh, e dopo un poco, oh oh oh oh, è rosso fuoco, oh oh oh oh, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. Da spiaggia, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. C'è lo sportivo, oh oh oh oh, tonto e giulivo, oh oh oh oh, che fa lo yoga, oh oh oh oh, sul bagnasciuga, oh oh oh oh, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. C'è il tipo snob, c'è il tipo su, c'è il tipo bar, ma guarda quanti ce ne sono, tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. C'è il tipo greek, oh oh oh oh, c'è il tipo croc, oh oh oh oh, c'è il tipo crack, oh oh oh oh, c'è il tipo rock, oh oh oh oh, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia. Spiaggia. Spiaggia, tipi la spiaggia.